Stai ascoltando la programmazione di Radio Tripop. Rapidi e sommergibili, come sommergibili, scusate, ci siamo. Scusate per l'errore, ma vado sempre di fretta, sono entrato in diretta proprio ora con un po' di ritardo, vabbè dai. Sono cose che capitano, un abbraccio a tutti, un saluto da parte di Andrea. Benvenuti a tutti all'interno di Articolo 21, questo programma preserale che potete ascoltare sulle magiche frequenze di Radio Oltrepò. Passatemi questo termine molto molto antico, dicevamo un grande ritorno online dopo un po' di tempo. Saluto Luca che mi ha scritto una mail e lo ringrazio per essere insomma sintonizzato con noi su Radio Oltrepò. Ed ora partiamo immediatamente con la musica di sottofondo che non deve mai mancare, ed ecco il primo grande successo. Un disco molto molto divertente prodotto da Doc, Madame de Pompidou, una versione riarrangiata in chiave moderna di questo disco che è decisamente in stile musica barocca. Signore e signori, Doc in apertura all'interno di Articolo 21. Madame de Pompadour excelled at an art which the majority of human beings thoroughly despise because it is unprofitable, ephemeral, the art of living. These are Madame de Pompadour's rules for the raw entertainment of His Majesty King Louis. Nobody may join the society who is not an experienced actor. Beginners are not admitted. It is forbidden to change parts without the consent of all the other members of the society. Each person will state in which capacity he or she is joining. In case of absence, the absentee may not choose a substitute. This is to be done by the other members of the society. The absentee goes back to his original job on his return. Nobody may refuse a part because it is unflattering or tiring. These six rules apply to actors and actresses alike. Actresses. Works to be acted will be chosen by the actresses. They will fix the date of the performance as well as the number, the day, and the hour of the rehearsals. The actors will arrive punctually at the rehearsals, subject to a fine for lateness to be imposed by the actresses. The actresses will be allowed half an hour's grace. If later than that, they will be subject to a fine, which they themselves will fix. Ascoltando la programmazione di Radio 3 Pro. Oserei dire immenso Doc, questo produttore, cantante, artista che proviene dalla Scandinavia, ci ha proposto un brano dal titolo Madame de Pompidou, un brano che ha sonorità molto molto stile barocco, quindi musica classica del periodo barocco, così, no? Con sonorità molto molto recenti. Il risultato è questo e direi un ottimo ottimo risultato. Questo compositore ci ha abituato a questi esperimenti molto particolari che si rifanno in particolar modo alla musica classica. Questa sera vi ho proposto questa canzone molto molto, potremmo definirla Happy Sound, che però non disdegna anche la musica barocca, insomma ha qualche accenno alla grande musica barocca. E a proposito di questo compositore Doc, che proviene dalla Scandinavia, spesso lo potete anche ascoltare su yamendo.com, vi ricordo, aperte le virgolette, chiuse le virgolette, spesso Doc è solito a collaborare con un'ottima cantante pianista russa, sto parlando di Lena Selyanina, purtroppo non sarà corretto il cognome, vabbè, è lo stesso, e spesso collabora con questa grande pianista e propongono delle vere e proprie opere d'arte. Se siete curiosi o curiose, basta andare sul sito yamendo.com, www.yamendo.com, cercate Doc e trovate tutta la sfilza di suoi dischi liberamente ascoltabili e legalmente scaricabili da questo sito. www.yamendo.com, cercate Doc. E ora, visto e considerato che abbiamo parlato di Lena Selyanina, ascoltiamo un brano di questa pianista russa, un brano molto molto, diciamo così, romantico e lento, che spezza magari un pochino il ritmo con la nostra base prettamente dance. Il titolo della canzone è Un petit poème, Lena Selyanina, eccolo qua, Petit poème. Radio Tripo International è una web radio personale, non ha entrate, utili, non ottiene alcun tipo di finanziamento, non trasmette spot pubblicitari. Le opere musicali programmate sono di tipo Creative Commons, precisiamo, Creative Commons, licenza attribution, by. Per ciò che concerne il resto, per i programmi parlati, ci rifacciamo all'articolo 21 della Costituzione italiana, che dice: tutti hanno diritto di manifestare, liberamente, il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo, di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Buon ascolto con i nostri programmi. Un abbraccio a tutti da Radio Tripo International. Bene bene, torniamo in onda. Siamo arrivati al momento di leggere i titoli del quotidiano pavese, la provincia pavese. Prima però vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Articolo 21 in vostra compagnia Andrea. La radio che state ascoltando è Radio Oltre Po, potete tranquillamente seguirci o su Twitter oppure su Facebook, basta cercarci, tutto molto semplice, ci trovate, potete aggiungerci alla lista di vostri amici su Facebook e dialogare con noi se vi va. Se invece usate Twitter potete seguirci per avere le principali news sulla nostra emittente, non solo, quindi Twitter, Facebook, una coppiata vincente. Vi do anche la mail in caso vi servisse, radiooltrepo@live.it. Se volete comunicare con noi, ricordate, radiooltrepo@live.it. Ora andiamo con i titoli della provincia pavese. Nel taglio alto a sinistra, Pavia, 3 gol per sognare la C1. Sempre in alto, questa volta nella parte destra, si parla sempre di sport nei piccoli riquadri. Basket Pavia, impresa Paul Mitchell, la salvezza è vicinissima. Nel taglio alto, nel riquadro a destra, pallavolo, Riso Scotti è eliminata, ma la playoff playoff da applausi. Scusate l'errore, ma non mi intendo di sport e magari può capitare che commetto qualche papera. Invece nella parte centrale un articolo che occupa un sacco di spazio, purtroppo, perché si parla di cronaca. Ragazzo muore con una BMW, si schianta contro un albero, aveva la patente da pochi mesi. Liceale 18enne, alle 4 del mattino era uscito dalla disco, è sceso dal disco bus, scusate ma sto leggendo la provincia pavese online, disco bus che tornava da Garlasco e aveva ripreso l'auto. Poi abbiamo nel riquadro in basso a sinistra, crisi a Pavia, inoltre poi il crollo più pesante, case, vendite meno 20%, cresce il mercato degli affitti. Continua l'articolo a pagina 13. Vediamo se riesco a leggere questo perché è scritto molto in piccolo, scusate, ma sto leggendo la provincia pavese in versione online del sito del quotidiano. 4 feriti, scontro al Cardazzo causato da malore, vittima un bronese. Ed infine nella parte bassa abbiamo un articolo che parla di scuola. Insulti in gita alla prof, studente sospeso per 6 giorni. questo è tutto per quanto concerne i titoli della provincia pavese. Noi ci ritroviamo a tra poco con ancora tanti tanti grandi successi musicali e poi ripercorreremo un pochino velocemente a grandi linee lo scontro politico tra il leader della PDL Silvio Berlusconi e non so se è giusto chiamarlo il suo delfino, Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini. Tra poco vi leggeremo proprio parte del loro dialogo, tra virgolette, molto molto acceso. Voi state lì perché Articolo 21 continua e in particolare continua la nostra grande musica. A tra poco. Questa sera non so perché mi sono fissato sulla musica classica, sulla grande musica barocca. Abbiamo un ennesimo rifacimento moderno di Antonio Vivaldi. ascoltando la programmazione di Radio Tetò. Dopo le quattro stagioni di Vivaldi avete ascoltato l'autunno, ovviamente non era interpretato in chiave classica, ma bensì in chiave molto molto moderna. Torniamo in diretta con l'articolo 21, io sono Andrea, siete all'ascolto di Radio Oltre Po, ora come annunciato in precedenza, apriamo una piccola parentesi per quanto concerne la politica interna italiana e dal giornale City analizziamo a grandi linee ciò che è accaduto in queste settimane nella PDL, cioè lo scontro tra Fini e Berlusconi. Ho trovato un articolo molto interessante che in pratica fa un riassunto di ciò che è accaduto tra i due leader, il loro battibecco che insomma tutti i media ne stanno parlando. Noi lo ripercorriamo tramite questo giornale che vi ricordo si chiama City, l'indirizzo internet è www.city.it, è un quotidiano gratuito che trovate in giro e ci tenevo proprio a leggere questo articolo che ci parla di politica interna. Rissa sfiorata, accuse reciproche, urla, battibecchi, gesti di stizza. Alla riunione di direzione del partito i cofondatori si scontrano come mai prima. Il premier fuori chi non è con me. Roma chi non si allinea è fuori dalla PDL. Il premier Silvio Berlusconi commenta così a fine giornata lo scontro pesantissimo che lo ha opposto al cofondatore della PDL, il presidente della Camera Gianfranco Fini. E sembra essere pronto a chiedere che lasci il suo ruolo istituzionale. La direzione del Popolo della Libertà, convocata ieri a Roma, si è conclusa così con una tensione ancora più forte di quella con cui era iniziata. E metto per l'appunto in risalto proprio il dialogo che c'è stato tra i due politici. Non sono un traditore, dice Fini, ad aprire uno dei rarissimi dibattiti pubblici interni alla PDL. Il Presidente della Camera rifiuta l'accusa di traditore, Berlusconi lo interrompe, non mi mettere in bocca cose che non ho mai detto. Avrai diritto di replica, taglia corto Fini, Berlusconi lo ascolta nervosamente, lo interrompe ancora due volte, l'ex leader di AN critica la mancanza di democrazia interna, la sudditanza politica alla Lega, rivendicata il diritto di posizione di minoranza. Dopodiché Fini passa in rassegna le cosiddette critiche verso la Lega. Critica l'aspirazione della Lega a mettere le mani sulle banche del Nord e a impedire la liberalizzazione delle municipalizzate, scusate. Poi l'affondo sul tema giustizia, Fini dice no a una riforma che minimamente tuteli le sacche di impunità, anche se va contenuta la politicizzazione della magistratura, così afferma il leader l'ex leader di AM. Poi ricorda lo scontro sul processo breve che definisce un'amnistia mascherata e chiede un cambio di rotta sull'economia, in particolare su fisco e pensioni. Dopodiché Fini rivolge delle accuse al Premier. Il Presidente della Camera Fini finisce il suo intervallo, va al banco della Presidenza Berlusconi. È già in piedi con dei fogli in mano, stretta di mano rapidissima tra i due e poi il Cavaliere va all'attacco. Risponde subito alle critiche mosse da Fini di aver sottoposto il partito al pubblico linciaggio con gli attacchi dei finiani in televisione e il contrappunto quasi quotidiano alla sua leadership e alle sue posizioni politiche. Seduto in prima fila, Fini non si trattiene, gesticola con testa, alla fine Berlusconi gli dice che se vuole fare politica deve lasciare il suo ruolo istituzionale di Presidente della Camera. Fini scatta in piedi, che fai micacci? Sembra sul punto di andarsene, poi torna indietro e si risiede in sala. E poi Berlusconi continua ancora il suo discorso, il no alle minoranze. Alla fine di una giornata tesissima, la direzione nazionale della PDL ha approvato a maggioranza un documento preparato dai tre coordinatori che sostiene in pieno la posizione di Berlusconi e boccia l'idea di qualsiasi corrente interna al partito. Solo 11 voti contrari al documento, i Fignani presenti e un astenuto. Quando Fini lascia la direzione ribadisce di non aver nessuna intenzione di uscire dal partito, ma il Premier non la pensa così. E direi non è l'unico, Modestamente anch'io penso che in futuro, almeno per questi anni che ci rimangono da vivere, tra virgolette, di governo di Berlusconi, poi dopo le elezioni vedremo. A mio avviso Fini sarà molto molto critico su svariati punti e questo dibattito ne è stato un vero e proprio esempio tangibile. Dopo le news politiche, ovviamente riprende la musica su Radio Oltrepò, noi ci ritroveremo tra poco per parlare invece questa volta di programmi televisivi, in specifico che vedere questa sera magari sulla piattaforma Sky. E ora ancora grande musica. Dames en heren, we komen aan Ter Lompaardeseide. Volg op de Halt Oost Lange Einde station. Ascoltando la programmazione di Radio Oltrepò. Continuiamo a parlare di televisione questa volta con i programmi che potete vedere questa sera sulla piattaforma Sky. Sky Cinema 1 alle ore 21 propone un film in prima TV, film drammatico, Crossing Over. Alle ore 23 invece Alibi e Sospetti, un altro film, questa volta però francese ed è poliziesco. Sky Cinema 24 c'è film drammatico Che Guerriglia, un altro movie dedicato alla vita di Ernesto Che Guevara che potete vedere questa sera alle ore 21 su Sky Cinema 24. Passiamo al canale per tutta la famiglia, Sky Cinema Family alle ore 21 Beverly Hills Chihuahua. Alle ore 22.40 film commedia Torno a vivere da solo con Jerry Calà, è un film del 2008. Sky Cinema Hits alle 21.15 film drammatico Gomorra. Sottolineo un grande film che ho spesso rivisto su Sky, magari un pochino crudo, molto molto reale, che racconta le vicende di un clan della camorra napoletana ai giorni d'oggi. Insomma, tutto quello che accade ruota attorno alla vita di due giovani guaglioni, potremmo definirli così, che cercano di imporsi nella loro città facendo dei furtarelli eccetera eccetera, ma poi purtroppo la pagheranno, come si suol dire, con la propria vita. Comunque è bellissimo, alle 21.15 Gomorra. A seguire su Sky Hits 23.40 film thriller Legittima Offesa. E uno sguardo anche a Sky Cinema Max, che alle ore 21 propone Last Action Hero, l'ultimo grande eroe. 23.15 Filmazione Squali all'attacco. Vediamo Sky Cinema Mania, il canale dedicato magari un po' ai film ricercati, cosiddetti film d'essè, che solitamente magari non vedete in TV o non vedete al cinema. Alle ore 21 film commedia Il boss e la matricola. Alle ore 22.50 film commedia Giù le mani dal mio periscopio. Per gli amici italiani, alle ore 21 su Sky Cinema Italia, il canale che propone solo opere di produzione made in Italy. Alle 22.40 film avventura Attila. Alle 0.05 film commedia La settimana al mare. Su Sky invece Cinema Classics, dove rivivono i grandi capolavori anche in bianco e nero degli anni 60, degli anni 70 e anche degli anni 40, insomma. Alle 21 c'è un film thriller, Notorious, l'amante perduta, di Alfred Hitchcock, insomma, con Ingrid Bergman, Ciula de USA, 1946. Alle 22.50 film avventura Il vecchio e il mare. Alle 0.20 film drammatico Riflessi in uno specchio scuro, anche questo, insomma, all'aria molto molto inquietante. Passiamo a Cult 319 Sky. Alle ore 21 film d'azione Miami Super Cops, poliziotti dell'ottava strada, di Corbucci con Buzz Spencer e Terence Hill. Alle ore 23 film azione L'ultimo combattimento di Chen. Passiamo al canale della Metro Golden Mayer 320 Sky. Alle ore 21 film avventura I Vichinghi. E alle ore 23 invece filmazione Miami Vice. Questo è tutto per quanto concerne i film programmati sulla piattaforma Sky TV Italia. Vi ricordo che alle 21.15 su Rai 3 c'è Chi l'ha visto. Su Rai 2, se non erro, Voyager, perché sto andando a ruota libera, non ho davanti qua niente. E insomma, probabilmente a seguire poi su Rai 1 alle 23 Porta a Porta per Chi ama la politica, eccetera eccetera. Quindi questo è tutto per quanto concerne i programmi televisivi di questa sera. Nel ricordarvi che siete all'ascolto di Articolo 21 con Andrea e con Radio Oltrepò. Arriva il prossimo grande dischettone. Ancora poche battute insieme, poi ci saluteremo, però torneremo ancora mercoledì. E se ho qualche dettaglio di tempo anche domani sera, per essere qua a divertirmi in vostra compagnia, vi ricordo ancora, puoi ascoltarmi ancora in streaming audio. Dopo questo programma parte regolarmente la nostra replica fino alle ore 24 o giù di lì. Potete anche magari ascoltarci in replica nell'arco della giornata, della nottata e della serata. Andiamo avanti. Music su Radio Oltrepò. grande piacere, ci siamo diretti un po' all'ascolto della grande musica chill out proposta questa sera all'interno di Articolo 21 da parte di Andrea e reperita dal sito yamendo.com. Abbiamo ancora poche battute da trascorrere assieme, però prima di congedarci leggiamo qualche appuntamento in giro per la provincia di Pavia per quanto concerne il mese di maggio, quindi potete annotare alcune date se vi interessano. Vediamo un po' che cosa c'è di bello in giro, sagre patronali, feste patronali, eccetera eccetera. Sabato 15 maggio alle ore 21 a Corvino San Quirico, presso il centro polifunzionale, Regalaci un sorriso, concerto organizzato dai familiari vittime della strada con canti lirici e ospiti a sorpresa. Vi do anche un numero di telefono per informazioni: 349 6594 422. Invece domenica 16 maggio alle ore 16 a Fortunago, piazzetta dell'oratorio, jazz per San Ponzo, concerto della Taramelli Jazz Band di Pavia in occasione della festa patronale. Organizzazione e informazione: contattare il comune di Fortunago 0383 87 52 13. Venerdì 21 di maggio alle ore 21:15 a Casteggio, Certosa Cantù, Lirica in Certosa, da Mozart a Verdi, toccando anche Puccini, Bizet, Gershwin, cena con gala di apertura di Oltrevini e di esibizioni del mezzo soprano Ida Maria Turri, accompagnata al pianoforte da Stefano Romani. Organizzazione e informazione: Casteggio Servizi 0383 82 472. Sabato 22 di maggio alle ore 21:15 a Santa Giulietta, chiesa parrocchiale, settima rassegna di cori di San Colombano, selezione delle migliori opere corali provenienti da tutto il nord Italia per una serata che spazia dal sacro al profano. Organizzazione e informazione: Polifonica San Colombano 335 396596. Lunedì 7 di giugno alle ore 21 a Pavia, Piazza Duomo, Insieme per il Duomo, concerto della Corale Gospel Valla per la raccolta fondi per il restauro del Duomo. Organizzazione, Comitato per il Duomo e il Comune di Pavia, info al numero di cellulare 338 22 67 775. E concludiamo con domenica 13 di giugno alle ore 21 a Lungavilla Auditorium, Giovani Talenti, concerto di premiazione del concorso internazionale per strumentisti. Organizzazione e informazione: 0383 80 41 75. Questo è quanto per quanto concerne le sagre patronali in giro per la provincia di Pavia. Purtroppo il tempo è tiranno, come si dice in questi casi, è arrivato il momento di congedarci. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qua. Voi non andate via perché la replica parte immediatamente, ci potete ascoltare quanto volete in replica, e vi rinnovo l'appuntamento nei prossimi giorni sempre su Radio Oltrepò International con Andrea. Vi ricordo insomma che potete diventare nostri amici su Facebook oppure seguirci anche su Twitter. La mail è radiooltrepo@live.it, sito internet www.radiooltrepo.too.it. Mi sembra di aver ricordato tutto, ora vi auguro insomma una buona serata in compagnia dei nostri programmi e vi regalo la sigla di coda che conclude Articolo 21, è la mia canzone preferita, Jamison Young, ormai la conoscete, numero uno, veramente troppo bella, e magari fa anche riflettere questo brano. Crush, Radio Oltrepò, bye bye, ciao da Andrea, alla prossima, ciao ciao.